in primo piano. Le 7:31 minuti, una buona giornata da Laura Bettini per la rassegna stampa di oggi. Rapidamente percorreremo tutte le prime pagine dei quotidiani e quanto possibile ovviamente delle pagine interne. Cominciamo dal Sole 24 Ore. Il tema un po' ovunque è quello della fase 2 ed è proprio su questo che sceglie di titolare il Sole 24 Ore. Fase 2, tutte le incognite della ripresa, cantieri, siderurgia e moda, individuati 12 settori con i requisiti per ripartire. E poi, sottolinea il Sole 24 Ore, Banca Italia ci dice: ogni settimana l'Italia perde lo 0,5% del PIL, nel periodo gennaio-marzo crollo un meno 5%. Oggi scrive il direttore Fabio Tamburini: i rischi dell'effetto Babele, e il titoletto è idee poco chiare. L'importante, scrive Tamburini, in certi momenti della vita è avere idee chiare, magari poche, ma che centrino l'essenza dei problemi. Esattamente il contrario di quanto sta accadendo per avviare l'uscita dall'emergenza coronavirus. Per questo abbiamo deciso di dedicare le pagine iniziali del giornale all'aggiornamento delle iniziative su aspetti decisivi, la task force sulla ripartenza economica, guidata da Vittorio Colao, e delle altre commissioni insediate a vario titolo, il delicato capitolo delle app utili alla ripresa, le iniziative e gli accordi che stanno proliferando a livello nazionale e regionale per accorciare i tempi della fase 2. Iniziative che sono tante, poi vedremo nel prosieguo di questa rassegna stampa, forse anche un po' troppe a giudicare appunto dai numeri delle task force e dai numeri delle persone che compongono queste task force, sia a livello nazionale che regionale, e poi alla fine vanno tutti a sovrapporsi rendendo difficile prendere delle decisioni. Sempre da Sole 24 Ore, IMU e TARI, a chi non paga la rata annullati interessi e sanzioni. Poi la fotografia dedicata alle materie prime agricole: aumentano le tariffe dei trasporti, grano e trasporti, scintille di inflazione, questo è il titolo. E poi ovviamente si parla di questioni europee, Parlamento europeo sì ai recovery bond, Lega e 5 Stelle contro i corona bond, la maggioranza favorevole a investimenti garantiti dal bilancio europeo. Si ospita poi un intervento di Irene Tinagli, economista, anche europarlamentare del PD, presiede la Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo, ed il titolo scelto per questo intervento è: falso dibattito sul MES, una politica seria discuta delle risorse necessarie per ripartire. Torneremo poi sulle pagine del Sole 24 Ore per gli approfondimenti. Andiamo a Repubblica. Repubblica, titolo a tutta pagina: Italia, quanta fretta. Ieri solo 355 malati in più, ma 575 decessi. Il governo pensa di limitare il via libera all'interno dei confini regionali. No all'ipotesi di far ripartire bar e ristoranti. Pressing del nord per riaprire tutto il 4 maggio, ma Conte dice nessuna fuga in avanti. Sempre dalla prima pagina di Repubblica, la fotografia è quella di Carlotta, studentessa di Castelfranco Veneto, con la mascherina da antagonista ma dietro una griglia, e dice Repubblica: un progetto fotografico contro l'isolamento. Dalla prima di Repubblica anche le carte sull'ispezione del Trivulzio a Milano: così hanno fatto morire gli anziani. Non si può sottacere una certa inerzia dei vertici dell'Agenzia di tutela della salute, sia del Pio Albergo Trivulzio, che pur consapevoli della fragilità dei pazienti si sono attivati con ritardo. È un virgolettato dagli ispettori del Ministero della Salute: un colpo al muro che nasconde la verità sulla strage di anziani nel Pio Albergo Trivulzio. La Stampa, il titolo a tutta pagina: l'allarme già un mese prima inascoltato. Il Ministero della Salute, scrive La Stampa, informò del pericolo il 23 gennaio, ma il vertice convocato in Regione Lombardia non varò un piano. La Commissione Colao, quindi qui si va su un altro livello, indica l'obiettivo zero contagi entro la fine di maggio. L'indice di infezione adesso è sceso allo 0,8%. sul titolo di apertura, La Stampa scrive: l'allarme fu dato un mese prima, ma rimase inascoltato. Il Ministero della Salute informò del rischio epidemia il 23 di gennaio, ma il vertice convocato in Regione Lombardia non varò un piano. E vado direttamente nelle pagine interne, dove si dettaglia ovviamente la questione, con un articolo di Monica Serra. Dunque, durante i lavori della task force, come comunicato dalla stessa regione, insieme ai responsabili dell'ATS di malattie infettive degli ospedali, sarebbero state attivate tutte o quasi le realtà del territorio. I medici di ASST, IRCCS, case di cura accreditate, ospedali classificati, medici di famiglia, eccetera, dichiarò all'epoca l'assessore Gallera, devono segnalare i casi sospetti all'ATS di competenza attraverso procedure informatiche specifiche, gestendo il paziente in stretto raccordo con referenti delle malattie infettive. Dunque la regione, un mese prima dell'esplosione della pandemia, sa che esiste un rischio concreto per il coronavirus. Ma cosa fa? Si domanda Monica Serra. Annuncia l'elaborazione di un raccordo operativo con medici di base e pediatri del territorio. Aperte le virgolette, abbiamo nelle scorse ore, dice sempre Gallera, emanato alcune indicazioni importanti per i medici di base e gli specialisti ospedalieri in costante raccordo con il Ministero della Salute. Quelle linee guida, però, come dichiara il presidente dell'Ordine di Milano, Roberto Carlo Rossi, ai medici di base non sono mai arrivate e non abbiamo mai avuto notizia dei lavori della task force. Peccato, abbiamo perso un mese per prepararci all'emergenza. Questo è solo un passaggio di questa ricostruzione della Stampa. Stampa, torniamo alla prima pagina, è allarme per la siccità, non piove, a rischio le forniture alimentari, quindi si aggiunge crisi a crisi. Al centro pagina una fotografia degli astronauti che tornano dopo 6 mesi a terra e scoprono le mascherine. Avevano lasciato il pianeta quando ancora si potevano stringere mani e abbracciare persone. Ieri gli astronauti della NASA, Jessica Meir e Andrew Morgan, e il russo Alex Kripochka, sono tornati in un mondo stravolto dalla pandemia. Poi, sempre sulla Stampa, il re degli scafisti si riprende il traffico in Libia, ne scrive Domenico Quirico, un super ricercato che appunto è tornato in pista. Corriere della Sera, fase 2, scontro nord-sud. Il Consiglio Superiore di Sanità dice tasso di infezione allo 0,8%, curva dei positivi ancora giù, circa 7.000 i morti nelle RSA. E poi il governatore De Luca, con quelle dichiarazioni che ben conosciamo, le abbiamo sentite nel corso dei nostri GR24. De Luca: chiudo i confini, se altri aprono, chiudo i confini della Campania ovviamente. Bar e ristoranti, ripresa a maggio ma limitata. Centropagina invece una fotografia di una famiglia tedesca. Già una settimana fa si godeva il verde e il sole davanti al palazzo del Reichstag a Berlino. L'epidemia è sotto controllo, la svolta della Germania. Lo annuncia il ministro della Salute Spahn. L'indice di riproduzione del virus a 0,7 sotto la soglia critica. Ci sono più guariti che positivi. Questo in Germania. I contagi stimati dagli esperti in Italia invece arrivano fino a 6 milioni. Come minimo i contagiati sono il 5% della popolazione, ma probabilmente sono anche il 10%, vale a dire circa 6 milioni di italiani. Nelle zone rosse 1 su 3 ormai però sarebbe immune al coronavirus. Anche il numero dei morti va tarato, sarebbero almeno il doppio. Simona Ravizza e Silvia Turin ne scrivono. E chiaramente la situazione è molto differenziata tra zone che hanno vissuto una crisi profonda, come alcune che vanno da Lodi, Bergamo, Brescia, ad altre del paese dove l'incidenza del virus è assai minore. Andiamo sul Giornale, titolo di apertura: manicomio De Luca, il muro di Napoli, chiuderò la campagna a Lombardi e Veneti. Il governatore minaccia di blindare la regione se il nord riapre. Ricciardi dell'OMS è certa un'altra ondata del virus in autunno. E intanto, chiosa il giornale, i sindacati bloccano la ripartenza. Scrive il direttore Sallusti: all'appello mancavano solo i sindacati, non che i rappresentanti dei lavoratori non abbiano diritto di dire la loro, anzi la sicurezza sui posti di lavoro deve essere una priorità assoluta della ripartenza, ma un conto è porre condizioni severe, altro è, come è successo ieri a Milano nel summit tenuto dalla regione, negare a priori il diritto della politica di fare sintesi tra tutte le esigenze e decidere i tempi di uscita dal blocco totale. Avanti così sarà il caos. Con un paese in mano a scienziati, magistrati e sindacalisti, una sorta di Repubblica delle Banane, cioè uno stato fantoccio nel quale gli interessi degli italiani sono subordinati a quelli delle élite che non vogliono perdere ruoli e privilegi, non sempre per la verità aderenti alla Costituzione. È molto lungo poi dopo l'editoriale, ci fermiamo qui, sempre dalla prima del giornale. Sono morti i Corona Bond, spunta un piano Marshall, scrive Vittorio Macioce. Trovata l'app che ci aiuterà a essere immuni. Immuni è anche il nome che è stato scelto per questa app, che è stata scelta, ma non è l'unica, e lì già appunto si crea una confusione sulla quale poi torniamo. Come dicevo, Sole 24 Ore approfondisce molto questi. Molte app e molte task force che sono state varate. Avvenire: meno casi, più divisioni, ancora 575 morti, calano i contagi soprattutto al sud, il governo via libera a edilizia e arredo. Sul MES, maggioranza spaccata all'Europarlamento, Lega e Forza Italia dicono no agli Eurobond. Al centro pagina, sistema scolastico a rischio, in crisi, una paritaria su tre. Avvenire torna sul tema delle scuole, un tema sicuramente molto caldo, di cui si parla molto ma sul quale non abbiamo ancora chiarezze. Sistema scolastico a rischio, dicevo, una paritaria su tre in crisi, le congregazioni religiose rafforzano l'allarme per la drammatica situazione delle scuole cattoliche paritarie, parte integrante del sistema nazionale di istruzione, rischio sottolineato anche nel documento finale del Consiglio permanente della CEI. Andiamo al manifesto, la fotografia è quella del governatore della Lombardia Fontana con una mascherina, il titolo "Se ne lava le mani". La responsabilità del trasferimento dei malati di Covid dagli ospedali alle RSA e dei nostri tecnici, queste le parole di Fontana virgolettate. Sulla strage delle migliaia di anziani nelle case di riposo lombarde il governatore si discolpa ma non convince. Il PD dice "scandaloso, scarica barile, la delibera è la sua". Poi, sempre sul manifesto, si torna all'Europarlamento, PD e 5 Stelle divisi sul MES e fondo ripresa, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si sono divisi sul voto sugli emendamenti e sulla risoluzione votata ieri dal Parlamento europeo sul pacchetto anticrisi che contiene il meccanismo europeo di stabilità, MES, fondo salva stati. L'intervento della Banca Europea degli Investimenti, il sostegno alle casse integrazioni SURE e l'ipotesi del fondo per la ripresa gestito dalla Commissione europea e incardinato nel bilancio europeo da rifinanziare. Anche le destre in ordine sparso, una spaccatura su un'alternativa MES-Corona-Bond che nel dibattito europeo non c'è. Giovedì prossimo, 23 aprile, i capi di Stato e di Governo del Consiglio europeo si esprimeranno sia sul pacchetto di proposte votato dall'Eurogruppo che sul fondo della ripresa. Il Messaggero: regioni, si riapre a più velocità, Italia divisa in tre macro aree, l'ipotesi ristoranti dal 4 maggio, Palazzo Chigi ancora nessuna data. Il Sud pronto a bloccare la mobilità con il Nord, più che Sud la Campania, almeno così dichiaratamente, poi abbiamo visto delle dichiarazioni sulla Calabria. L'OMS comunque dice l'onda tornerà, la Lombardia è incauta. Al centro pagina una fotografia invece di militari tedeschi dell'esercito che testano l'app scelta dal governo di Berlino per il distanziamento sociale, e quindi infatti sono tutti a distanze diverse e evidentemente ciascuno di loro ha un telefono in mano e stanno vedendo quali risultati si ottengono con l'uso di queste app. Poi, sempre dalla prima del Messaggero, e poi andiamo con la viabilità, i dati Istat, l'Italia, effetto virus, mortalità in aumento ma soltanto al nord. Qui ci fermiamo, diamo spazio alle informazioni sul traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. In primo piano. Ripartiamo dal quotidiano nazionale che titola: contagi giù, la fase 2 ora è più vicina. In un giorno i malati salgono di 355, il dato migliore dal 2 marzo, ricorda il quotidiano nazionale. Test sierologici, un italiano su 10 ha gli anticorpi, intanto l'Istat dice che i morti sono molti di più. In marzo e aprile superano il 20% di quelli degli anni scorsi. La media ovviamente nazionale, ci sono punte assai superiori al 20%. Quattro amici al bar, il titolo invece sulla foto notizia, una barista chiaramente, Colau ha un piano: riaprire caffè, ristoranti e cantieri, ma il governo frena, arriva l'app per tracciare i positivi. Poi abbiamo la notizia di Maurizio Arrivabene, l'ex capocorse Ferrari, che diventa volontario al volante per i malati, così ci dice il quotidiano nazionale. Gli astronauti che sono tornati nel pianeta Covid. Leggo qualche passaggio del commento di Bruno Vespa sul quotidiano nazionale. Nell'ora più unità nazionale o rischio di secessione, questo è il titolo. Nell'ora più buia della Seconda Guerra Mondiale, Winston Churchill guidò un governo di unità nazionale. La stessa cosa fece Giulio Andreotti nell'ora più buia del terrorismo, e vinsero entrambi. Non occorre spiegare perché oggi ne avremmo un disperato bisogno, non è aria, ma vorremmo almeno risparmiarci, perfino dentro le due coalizioni, una rissa furiosa che assomiglia alle celebri battaglie equestri del Medioevo, in cui si capiva chi avesse vinto solo dopo aver contato i cadaveri di cavalli e cavalieri. Non vorremmo che quando la rissa finirà sul campo restasse il cadavere dell'Italia. E poi prosegue, io vi ho letto solo l'incipit. Andiamo alla Verità, titola tutta pagina «La buffata della ripartenza». La app per tracciare gli italiani servirà a poco, in Corea e Singapore ha fatto fiasco, ma regalerà dati preziosissimi a una società partecipata da renziani e figli del CAV. La task force di Colau si serve di un colosso delle consulenze per cui lavora uno dei membri, così denuncia la Verità. Sulla Corea in realtà sembrava che avesse fatto più successo che danni, però avrà le sue ragioni, la Verità per scriverne. Zingaretti dà 4 milioni alla naturopata amica del suo assessore per le mascherine mai viste, sempre la Verità denuncia. Centropagina, finalmente si alza la voce del Papa, senza messe Chiesa in pericolo. E ancora, la Azzolina gioca con le vite di studenti e famiglie. Ministra indecisa a tutto, le aziende riaprono, la scuola resta chiusa. Dimenticate l'ormai famigerata fase 2. Se gli adulti si preparano un complesso ma imprescindibile ritorno al lavoro, i loro pargoli sono ancora alla fase 0. I balbettanti giallorossi riservano anche all'istruzione quell'attendismo diventato cifra governativa. Le scuole riapriranno certo, prima o poi, scrive Antonio Rossitto. Infine diamo uno sguardo anche al secolo XIX, contagio sotto il livello di guardia, l'indice di infezione scende allo 0,8%, la commissione Colau prevede l'azzeramento dei nuovi casi entro il 18 maggio, Liguria aiuti della regione per il turismo in crisi, in incentivi fino a 6.000 euro per ogni assunzione. Alle porte di una stagione turistica mai così difficile per la Liguria, per tutti gli altri anche, la regione interviene con 6 milioni per sostenere il comparto in accordo con sindacati e associazioni di categoria. Incentivi da 3 a 6 mila euro per le assunzioni, fondi ai disoccupati per la formazione. E questo è il taglio più specifico appunto sulla situazione della Liguria che ci propone il secolo XIX questa mattina. Dunque, torniamo al Sole 24 Ore, come vi dicevo, e vediamo un po' del, diciamo, caos task force, come scrive Sole 24 Ore. Sono 15 con oltre 450 esperti, ci fa sapere Manuela Perrone. In principio fu la task force del Ministero della Salute, era il 22 di gennaio, quando ancora nessuno immaginava che l'Italia sarebbe diventata l'epicentro europeo della pandemia da coronavirus, né che a quel primo gruppo di lavoro dedicato ne sarebbero seguiti altri. Altri 14 a livello centrale e almeno altri 30 a livello locale. Una pletora di comitati e commissioni che impegnano in tutto più di 800 persone tra politici, dirigenti, tecnici delle amministrazioni centrali, regionali e comunali, scienziati, manager, economisti, docenti universitari, esperti di dati e tecnologie. L'emergenza sanitaria ha visto proliferare soprattutto le task force tecnico-scientifiche dell'ormai famoso comitato istituito dal capo della Protezione Civile Borrelli, unità di crisi nata in seno all'Agenzia del Farmaco, fino alla struttura di supporto al commissario straordinario Domenico Arcuri, composta da 40 persone. Adesso che il virus ha cominciato a rallentare la sua corsa, è invece la volta dei team per la ripartenza, che si affastellano senza un ordine e una guida gerarchica. Quanto basta spiegare lo sconcerto che serpeggia nella commissione che genera le aspettative maggiori, quella presieduta dall'ex numero uno di Vodafone, Vittorio Colao, che è tornata a riunirsi ieri in videoconferenza. Sul tavolo dei 20 componenti è infatti piovuta una quantità di dossier, studi e documenti direttamente proporzionale ai gruppi e agli enti coinvolti, dalla mappa dell'INAIL alle raccomandazioni e previsioni del Comitato Tecnico Scientifico, dalle proposte del Ministero dello Sviluppo Economico alle esigenze della istruzione. Proprio al Dicastero guidato da Lucia Azzolina si registrano due task force, una per il presente, l'altra per il futuro. Quella per le emergenze educative, già attiva, ma ora ripensata in chiave Covid-19, che annovera un centinaio tra dirigenti, rappresentanti della protezione civile, pediatri, referenti territoriali del Ministero, studenti, e quella appena annunciata per la scuola che verrà, che sarà guidata da Patrizio Bianchi, docente di economia ed ex assessore in Emilia-Romagna, e conterrà circa 15 partecipanti. Per Mole segue il gruppo di lavoro voluto al Ministero dell'Innovazione da Paola Pisano. 76 esperti suddivisi in 8 sottogruppi chiamati a lavorare su app, dati e tecnologie, ma per numero di tavoli nessuno batte il Ministero della Giustizia di Alfonso Bonafede. C'è la task force sulle carceri, con annessa unità di crisi, e quella sugli uffici giudiziari, sempre con unità di crisi, più un tavolo virtuale con magistrati, avvocati e un gruppo interdipartimentale. Se l'economia di Roberto Gualtieri ha istituito con Banca Italia, ABI, MCC, SACE e Sviluppo Economico la task force per la liquidità del sistema bancario, circa 35 componenti, per favorire l'attuazione rapida dei decreti di sostegno alle imprese, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha creato un gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile, 9 esperti tra uomini del Dicastero e rappresentanti del settore creditizio. Sono 11, insomma, avete capito qual è la situazione, insomma, e qual è la quantità di persone che stanno lavorando, il che è un bene, ma dall'altra parte, come sappiamo, sarà una difficoltà quella di coordinare un po' tutti e poi dopo fare sintesi di tutte queste commissioni. Sempre da Sole 24 Ore segnalo un paio di articoli che vengono dalle pagine di Economia e Impresa. Uno di Ilaria Vesentini da Modena e Bologna, che chiedono di ripartire. Sondaggio su 851 aziende con 52.000 dipendenti, Confindustria Emilia. Siamo pronti a ripartire, appunto, dicono. Il primo errore è stato commesso già, chiudere le fabbriche, perché sarebbe stato molto più efficace lasciare accesi i motori al minimo per non ripartire da zero finita l'emergenza, e ciò non avrebbe comportato neppure rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ora evitiamo il secondo errore, dice la Confindustria Emiliana, aspettare il 4 maggio per riaprire. Dovremmo puntare a riavviare le attività da lunedì prossimo, il 20 aprile, perché più le settimane passano senza amministrare questa fase, senza un piano chiaro e condiviso di riapertura, più sale il rischio di deregulation, che farebbe più male che bene. Chiede una riapertura immediata ma graduale Walter Caiumi, il presidente di Confindustria Emilia, intervenuto ieri a margine della presentazione di questa indagine, appunto, condotta tra oltre 3.300 imprese associate di Bologna, Modena e Ferrara. A inizio aprile concludo, un'azienda emiliana su tre era chiusa. I tre quarti degli interpellati avevano già fatto richiesta di CIG Covid-19, una metà aveva anche presentato o stava per farlo istanza di moratoria in banca, e il conto delle prime settimane di lockdown è amaro. Il 70% delle imprese rileva un calo degli ordini. Ovviamente e comprensibilmente. Ultimi secondi per segnalare una riconversione che è quella della Krups di Padova, italianissima nonostante il nome. Insomma, le lavatrici adesso, più che lavare i piatti dei bar e dei ristoranti, sono state riprogettate per pulire e sanificare oggetti in uso a medici e infermieri. Abbiamo pensato alle loro necessità. In terapia intensiva si usano i sovrascarpe, ad esempio, ma muovendosi tra i reparti le calzature possono diventare veicolo di diffusione di germi, batteri e sporcizia, e così nasce Clean Lab, un lava oggetti professionale specifico per il lavaggio e la sanificazione delle calzature ospedaliere. Ci fermiamo qui, ci ritroviamo con Si può fare alle 8.30, grazie a Carmelo Lauricella in regia, da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto con GR24.